Tutti. Come va? Sì, già va bene, tu? Anch'io, cosa stai combinando? Appena c'è la radio, così dai. Io stavo controllando un attimo la palazzina mia, che ieri stavo dando i numeri. Adesso sta funzionando, tu? Adesso sta andando bene. Cazzo, è una vita, non ti sentivo. È una vita, va. Non è neanche un mese che... Aspetta le foto. Sì. Ma poi ci sei? Sì, dimmi, sono qua. Che ho ripreso. Sta passati telefischiando, sai. Non ho capito, la sto fischiando? Stavi telefonando al telefono. Sì, ia, ia. Andava bene. E tu, buon po', che fine hai fatto? Sì, niente, più che altro. Ho mangiato le cose, ma... E poi invece... Ho fatto alcuni lavoretti, ma niente di più, insomma. Ogni settimana ti voglio portare un'antenna che mi devi far vedere se va bene a... Va bene, là, te la dico in verticale. Ah, se ti... Se serve un'antenna per i 2 metri, ce l'ho in gomma, se ti sei per quella. Un attimo in gomma ce l'ho, per portartela. Se puoi per 27, va bene lo stesso. E poi te lo dico in verticale, là, te la faccio vedere e mi dici se va bene a farla. Vabbè, non c'è problema. Quando vuoi sali e me la fai vedere. Poi ti dico se va bene per quella frequenza che ti serve. Pagava. Ti ascolti, sì. Ma voi avete ascoltato bene. Ti mancherebbe. Allora, ship. Che ve ne vengo in 27, allora, siamo su 5, perché i canali 5 apposta. Cara, cara. Non manca F. Ehi, aspetta, adesso manca il processore. Adesso ci siamo. Adesso me ne andavo in 27, perché con la direttiva dei canali alti, facendo, cioè, ascolto più che altro. Stiamo ascoltando un po' di roba del Sud America. Adesso sono rientrato nei canali normali col 2009. Lo vedi? Su 47, 48, la parola c'è. Ah, ok, dai. Non c'è quello di bianco, scusa un attimo, che mi scusa te. Ecco, non c'è problema. Avanti. Buonasera, Pomponio, e anche a Massimiliano che ho sentito. Buonasera, Antonio, che ho sentito. Allora, zero un giorno senza sentirti. Io ci sono sempre io, capito? Perché se faccio qualche lavoro non è che entro, con l'altro è una cosa all'altra adesso. Quindi almeno oggi sono entrato. Poi come un po' dato mi sono messo in balletto adesso. Oggi invece c'è il caldo, sono uscito fuori, c'era più caldo fuori che dentro a casa. Un attimino, ho messo là il telefono qua. Non ti ho capito perché mi è squillato il telefono. Ho detto che ieri c'era più caldo fuori che dentro come stamattina. C'era caldo, sì. Ah, nuvoloso, boh, chissà che piova. Va avanti, chi è? Gabba, io sono Gian, tu, buonasera. Buonasera, dopo una marea di tempo. Ehi, dopo una marea tu, mi hai sentito? Anche io mi ero al telefono, mi ha squillato e ho ripreso adesso, vai. Ok. Ebbene, tu, dopo una marea di tempo. A fare sempre chi ha fatto, Gugu. Che è da te? Che è da te, Antu? E avanti. dice? Tutto a posto. Dov'è? Mi ha detto Pompon? Dopo il 45. 47, 48 pare che era una del genere. Con la direttiva ascolto molto di più di essere in con la 50, non c'ho cuore, ma sento le persone pulite pulite dalla Sud America. Brasilero. Cos'è? In orizzontale? Sì, in orizzontale, in orizzontale. Hai visto che ha fatto il motore sotto la 50, c'è il motore della parabola addirittura, quindi. Immagino questo, ci ho messo quello, non c'avevo altro. Abbiamo guidato da casa. C'è l'alimentatorino, faccio girare a destra o a sinistra. Tanto fa, non fa tutto il testo 60 gradi, fa solamente fa ovest. Ed è compreso il nord. Positivo. Va bene allora, ok. Riprendi a tu. Ecco. Ho visto la Formula 1. Non mi sono incazzato, sono, ma comunque. Ecco. Registrato un secondo il break. Vediamo anche io, mi avevo acceso appena finita la Formula 1, ho sentito Pompone e sono entrato. Ok, avanti il break. Buonasera a tutti quanti componenti del canale 5, da questa parte Leoncino che vi super saluta con la buonasera. Ciao Leoncino, buonasera, ben ascoltato. Compagnia mia di Antonio Bombolo e Pompone, dai. Ok, riprendi Pompone. Ciao Giuseppe, ben entrato, salutoni, ben sentito. Tutto a posto? Hai mangiato, sì? Cappa, ega. Se senti l'amico nostro, Antone, manda di tante condoglianze, Certo, ci ne ho tanti che sono defunti, ma... quello che mi ha dato lo strumento, se parla. Il Juventino. Il collega tuo di fronte a casa tua, mandali tante condoglianze. Ventino, collega mio di fronte a casa mia. Faccio un piacere, ma che c'è la cosa? A Mario si parla. Vabbè, già mai capito. Già c'è da fare nome, Io già lo so di chi sta parlando. Già capito chi era, Bambuli. Basta che non è varia. Non so presenti adesso, Juventino. Ali? Sì. Sì, ti ritrovi qualche 1969? Sì, cazzo, l'ho cercato anch'io. Ne ho tirato la fusata, ne ho tirato 4 e sembra che stiamo arrivando da Babbo Natale. Ok, dai. Va bene. Guarda che tu 1969 dopo questa carriera, quel tornato che c'hai i tappizzini, come ti avevo fatto avere io, lì c'è Monte 21-66 1969. Sicuro di sì. Sicuro di gioco, te lo sto dicendo, aspetta da lì. C'è 21-66 1969 in quel tornato, mi sembra che ne ha due lo stesso. No, ne ha uno. Perché nel mio Galaxy Uranus, in poche parole, ne ha tre di 1969, quando l'ho mandato a sistemare, mi viene bugati. Cazzo, tutti? Perché dove glielo prende in mano, non so dove metterci le mani. Capito, tutto di là. Un secondino c'è mia figlia, riprende Giuseppe. Ehi, Alberto Re. Cazzo, mi vorrei finire. Guardiamo poco intanto, già. Non è detto fusato, quando siamo alla tassiva Giuseppe, io venivo a 3,60 euro, non mi ricordo, adesso uno. Ci fa Claudio, 13 euro. Io ho detto strano. Ma la tassiva Giuseppe, guarda, sa quanto costano, perché mi ha detto che c'è... sono andato venerdì, mi ha detto adesso te le dico, devi mettere un video, non mi ricordo, ma comunque dice quanto costano. Dico che ti faccio usare... se vai da uno attingi un pezzo, fai l'altro attingi un altro pezzo, quindi bisogna andare da uno per forza lì. A primo che trovi, dove costa di meno, bisogna pigliarlo. Ma hai capito cosa te stavo dicendo, Antonè? Non ho capito che lui lo mio pensiero di fare a me, di fronte a me, ma CB. CB, e gli hai mai capito chi? Senza far nome, eh? Quello che avete riportato lì al tuo palazzo. Ah, capito. Ah, hai capito adesso? Stamattina gli ho fatto la telefonata, no? E gli ho detto, ebbene, dove sei? E il suo guà, ho detto, a Castelsardo. Ho detto, condoglianze. Condoglianze. Mi vuole bene. Beh, sembra, era ora che di perdere una partita con i cani morti. Ah, perché gli eventi, vivi. Oh, guarda, stavo per uscire stamattina, poi ho visto che era nuvoloso, gli tornate la bianca. Però sei sceso qua lì questa mattina, fammi una passeggiata. Mi stava annoiando qua a casa. Perché non sei sceso? Okay. Ero lì io, sino a mezzogiorno e 20 ero lì. Mi sono svegliato 10:30, poi da una cosa all'altra, 11:30 lo facevo per mezz'ora. Al limite se scendo stasera, faccio un giro. Penso di sì. Mi manco una mezz'oretta, un'oretta, faccio un giretto e poi me lo risolvo. Riprendi, Bobori. Gaffa. E io già lo sapevo che ti dicesse. Ma era ora di dare una piccola pesantina. Cazzo, tutta questa potenza, tutta questa prepotenza che hanno. Calma, che il campionato è lungo. Se tu noti il gol che hanno fatto ieri, era il fuorigioco, no? Vito l'hai? Sì. Dunque, le abbiamo abbonato anche quello. Non mi dire che sei interista, no? Perché non si sa, non lo sai che sono interista io. Non lo sai, no? Interista è un battone. Questo è il nome, avanti. Bruciato! Cos'è Massimilia? Bruciato! Bruciato i vecchiari! Io, l'intervista! Ma chi cosa va? Guarda va l'Inter! Correttamente sì, meglio che superiore alle altre squadre sì. Che altre squadre siete dei superiori? Parecchie squadre, parecchie. Buonasera. Buonasera. Ciao Gigi, buonasera. Un controllino, però dai, ma si vedeva di radio e non di segnale di radio. Stai fischiettando. Sta fischiando. C'è leggero il netto, ma sembra un microfono telefonico per esattezza. Quindi c'è la sorta di finale con la da Uraus, ma Uraus con che problemi c'ha la problema di trasmissione? Adesso vedete se fischia. Adesso no. Tutto un po' spezzettato. No, non c'aveva problemi di niente. Nessun problema. Era solo da cambiare il connettore da 6 punti a metterlo a 4, tutto lì. C'aveva tre finali, 19 e 69 e non ha manco. Ah no, per finale 19-69 non è possibile. Il 21-66 e il 19-69 è morta. Oh, tre in fila ne ha tre in fila. Ma non sono tutti per 19-69, no. Ma se ne ha, monta il 21-66 come pilota. E poi il 2-19-69, tanto di la me perché c'è stato il Saturneco qui e anche il Galaxy Plug è la stessa cosa. Monta quei finali. E invece il President Jack se lo monta un 21-66 e un MRF 477 che ti va a 34 d'uscita. In pratica la pedinatura bisogna che la metti al contrario del 19-69. e gira intorno ai 30-40 watt. Aspetta un attimino, io ce l'ho il Giorgio ne ha 3,1969 in fila. C'ha 3,1969 in fila il Giorgio, quello che ho io, il preside. Addirittura 3,1969 in fila, mi sembra strana questa cosa. Di solito ma per 7,2,66 come si lotta. Pilota e ne ha 3, cioè il pilota ne ha anche altri 2, ce ne ha, capito, e quello che c'ha Massimiliano la testa corta, sono 19,69, capito, perché non si vedono, può darsi che siano i suoi, che siano 19,69, però non si vedono, dimmi se sto scendo spezzettato, se no è un casino. Adesso in questo momento no, a poco fa sì. Allora aspetta un secondo solo e poi mi dici se c'è un momento spezzettato. Ehi, ehi, no? Ma così è spezzettato, guarda un po' se è spezzettato così. No, spezzettato no. Ehi, no? Ehi, no, ehi, no? Buonasera. Buonasera signore. Ciao Sandro. Dalla ruota, ciao Sandro, ha chiamato l'amico e mi ha detto che l'ha dato a Peppe Curmola quella roba tua e me la sta mandando, capito? Però domani non è possibile perché io sono qua. Comunque me la ce l'ha Peppe già così. Beh ok dai. Ciao Gigi, ciao Alessio, Massimiliano e poi. Ricordo Giuseppe mi sembra e poi Giuseppe vabbè Gigi dai ok ascolta c'ho ancora la testa gialla che è partita cosa vorrei cosa non ho capito cosa cos'è la testa gialla con la testa gialla ha fatto un po' lo chiude ma cosa ne so del partito? Mi arriva in città però non usce. Ok, vi saluto a tutti, Antonio Bombo lo chiude, ce la risentiamo un'altra volta. O più tardi, ciao ciao. Ciao Antonio Bombo, ci sentiamo. E accianto. Ma non va proprio, sa. No, nulla, no. L'ho provato ieri mi è successo. Ho visto che il relè eccita, però vedevo sull'alimentatore che non c'era diciamo l'assorbimento, quindi non so se è partito qualche componente. Così hai controllato ancora. Vuole controllato perché se il finale non conviene, io dico cosa più finale che come si chiama. Saluto, buonasera, buona continuazione. Ciao, c'è Giuseppe in bianco, avanti Giuseppe. Io sono qua, sempre in ascolto. Parlate, rimango in cuore. E cosa c'è, dimmi tu a mamma. Non c'è niente, no, io rimango in cuore, dai, parlate tranquilli, no, non ci sono problemi, li ascolto io. Faccio un po' di ascolto, dai. Prego. Va bene allora Giuseppe, non ascolta. Avanti dato Giuseppe, è tornato. Cappa Garga, vabbè, buonasera a tutti Giuseppe da questa parte. Rionci, già era ora di sentirti bene, vieni. Cappa, ciao Giuseppe, ciao. Buonasera anche a te. I curvi, come si dice, i cambiamenti si vedono, Giuseppe. Già era ora, cavolo, quanto piacere sentirti, cavolo, una vita, l'altro giorno stavi uscendo male, adesso stai arrivando una bomba. Cappa, com'è che sta arrivando lì con la tua zona, Giuseppe? Allora, 9:30, spaccato il radio Super 5, è di lusso. Cappa, sto usando 5 watt di baracchino, liscio, sono liscio, 5 watt. Cappa, già va bene, parla. parla, parla finché funzionano questi apparecchi, mannaggia. Non fare come faccio io, che parlo poco e mi ci guardano spesso. Avanti Antonello, poi non so chi ci sia altro, e buonasera a tutti comunque. C'è Massimiliano Bulldozer e Luigi Vulcano. Guardi Luigi, se sei... se non sei tornato tardi. Ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato. Ci sta chiesto la produttore comunque. Ci sta chiesto. Però non pensi da tratti ieri lui, non so cosa ha combinato. O c'è proprio di antenna, non c'è proprio di alimentato, non lo so. Se sei in macchina, buh. Non lo so, infatti ho cambiato microfono, ne ho cambiato già tutti i microfoni e non so cosa sia il problema, hai capito, non lo so. No, non è la roba del microfono, è la roba dell'alimentatore lì, è come se stai facendo è come se fossi senza poca alimentazione. No, l'alimentazione c'è, poca pure, l'alimentatore è quello grosso, quello è grande. In poche parole c'è qualcosa che non va in questo apparato allora, io ho già cambiato due microfoni. No, no, mica non c'è da niente, è roba di baracchino quella. Ah, ti sa. Beh, ok, dai. Aspetta che sto sistemando una cosetta qua. Una cosetta, dai. Massimiliano, quanto mi dai che te lo do io col finale? Quale finale? Stai cercando 1969. E quanto mi dai? Non lo gioco io. Non lo so. Facciamo un cambio. Ti do il finale e mi dai quella scatola grigia. Che è questa scatola grigia? Quella che stai parlando. Tu sei tutto combinato. Dopo fui mirando il capo, lo sto fare una proposta. Proprio 1969 è un baracchino, io non accetto io giù. Poco, quanto costa 1969? Dove giro? Non lo so neanche io, perché quando sono andato a Fusano mi ha detto 3,61 mi ha detto. L'ho fatto anche a vedere, dice guarda, costa 3,60. C'è una Claudio che ha tratto 12 euro. Adesso non so dove abbia tolto questa cifra. Poi io venerdì sono andato, detto, sono arrivati i finali, dice no, non è ancora arrivato, dice, sai che faccio un buon ordine. Perché dice non so manco quanto costa, non so manco lì quanto vengono quei finali. Capito? Io direi che intanto non si interessa per quanto vengono questi 1969, se per fare costa 12 euro l'uno. Sandro, allora dai, per 12 euro si può fare un pacchetto di Camel Light, si può fare un caffè, una pasta e mezza gasata. E i sigaretti magari? E ti ha già appena detto, Camel Light, un cappuccino, una pasta e mezza gasata. Quasi quasi, Antone, cosa dice? Ah, c'è una pizza tipo di pigliare, vedi, una pizza che cosa 5 euro, una birra e la massa caffè. Oh ragazzi, comunque se ne volete buttare i soldi, buttateli, perché tanto non servono i 1969 che prendete sia da Fuzzaro e attaccati da parte, perché c'è Roberto che ne ha ordinato anche da fuori, ne ha fatto arrivare da tutte le parti 1969 e non ne funziona neanche uno, hai capito? Non ne funziona neanche uno. Se tu te lo danno quello veramente originale, l'originale te lo danno 1969, mi pare che viene a costare sui 27 euro l'originale. Però non prendere quelli a 12 euro, 14 euro, intanto lo metti, lo butti e l'hai buttato quei soldi lì, perché non funziona, ve lo sto dicendo, non funziona, non le trovate, non si trovano, non esistono, ci sono altri finali che sostituiscono il 1969, che vanno bene. Il 1969 che trovi tu, che fai a rivale lo ordini, ne ha ordinato quel Roberto, quello di Mianazzato, dice, io li trovati, mi arrivano, ecco 12 euro l'uno, lì sono tutti arrivati, ecco, e ne ha ordinato 4, in questi 4 non ce n'è uno che andava, provato e scoppiato, il problema è quello lì, non ci sono più da quando c'era la Bonanima e Giancarlo, ha detto, non si trovano più. Se c'è qualcosa di quelli vecchi vanno bene, che c'erano una volta, quelli che ci sono adesso non vanno bene, scoppiano subito, non vanno bene, sono soldi buttati. Oh Gigi, ma quello che mi deve dare sangue è originale, capito? Quello che mi dà sangue è originale, che io gli do un tornato per pizzi di ricambio e lui mi dà 19,69, bene sono andato. Trovarne, se trovi equivalenti, capito? Originali è molto molto raro, alle fuori che non trovi una vecchia radio, andata e lo recuperi. Ma perché quello che c'hai tu non è originale? Quello che c'ho io è originale di una vecchia radio però. Non va bene, va benissimo quello. Mi dai quello, ne tolgo quello del tornado. E poi il tornado te lo do, ne ho un altro, capito, il tornado, per pezzi di ricambio, che accende ma non funziona, ma comunque c'è la scheda di canali, c'ha tutti gli altri vari componenti, capito, sa? Ci vuole sarà alle ore cos'è? vabbè, se ne ha tutto qui. Senti, c'è una radio che è allucinante, certo, che è forte. Sta facendo bene, non ci mancherebbe. Ok, allora. Adesso sono sceso di watt io, 5 watt, tondi tutti. Quasi 9 più 20, pronto. Aspetta, torniamo con 4. Io sono in anno con 6 watt. G, cazzo, adesso una bomboletta, perfetto. In L esce una bomba. Ma che già mi pare questa di 5 watt e 10 watt o 4 watt com'è? 5 e 10, capito? In HI è 10 watt, in L è 5 watt. Però se tu lo metti in HI dovresti chiudere un pochino il mic gain, dovresti andare alle ore 3 e alle ore 2 con il mic gain. Prova a vedere. Guarda a vedere, adesso ho passato il mic gain un po' e l'ho messa in H, schiacciato il pulsantino in H, vedi un po'. No, sta andando bene, perfetto, cioè ti ascolto io la bomba. Lo sento bene, adesso è perfetto, non dà nessun problema. Frequenzimetro, mi pare fa due bande sopra, due bande sotto, se non sbaglio. Eia, va due volte sotto, due volte sopra. C'ha 5 bande, 400 canali. No, ti interessa questo paracchino? A posto del 48, posto come il miglio del 48. E quando è il 48 va il miglio del 48 gira a gira. Ok, aspetta un attimino, vai, che ho commontato un attimino. Sto uscendo? Sì, sì. Stai uscendo. Ok, dai. Va bene, c'è la parola che faccio lo innesco, devo vedere un attimino. Non ho capito, cos'è Gigi? Ecco, vedi, questo gira-gira è più bello dell'ala 48, capo, questo paracchino qua, perché qua è la stessa grandezza del 48, però c'ha frequenzimetro, ma due bande sopra, due bande sotto, e fa il pulsante di 5 watt e 10 watt, capito, suo originale, che si sta a casa così, col 1979 c'è questo originale, è nato così. Ok, dai, un attimino, chi voleva entrare, se non ci sono, popoliamo. Ma per me è indifferente, Gigi. Prendete tutto a poco prezzo, già si compra. Ma, ecco, ok. C'è un bel baracchino a mettere in macchina perché è grande, la stessa grandezza del 48. La stessa grandezza del 48, è bellino, bello già di stripper illuminato, il coso arancione grande, vedi, una frequenza. È bello, è un bel baracchino, va bene, credo, perché bene, al posto del 48 questo gira è meglio di una da 48, lo sai. Sì, ma di che modello è? Che apparato è? Slitta che è il Mobix, no? Non ti ho capito che c'è qualcuno che vuole entrare, no? Questo è il Mobix, no? Slitta che è il Mobix, no? Ah, ho capito, ma non lo conosco. Va bene, dai, vediamo un pochettino. Tutti quanti i filtri, le cose. Comunque vai, puoi girare, vai due volte sopra e due volte sotto, e addirittura. Beh, è già tutto là. Mi pare che fa pure già lo scan per cercare il canale BMW. E già date cose là. Ah, la scannerizzazione. C'è la scannerizzazione, diciamo, per richiudere un attimino lo squelch, lui metti lo scanner e lui va alla ricerca dei canali, dai. E insomma, allora è un apparatino già un po' più sofisticato del 48. Positivo, sto vendendo 70 euro. Sto vendendo? È un bel baracchinetto, è tipo che bello, e sto vendendo 70 euro, ma è un bel baracchinetto. Ehi, capo, poi. E abbiamo un baracchino, io, bravo, Massimiliano, via. Ehi, Assami, qua sono, cosa stai usando? Cosa sto usando? Sto usando quel ciaraffo. Omega? Ehi, ogni tanto lo mettiamo sotto. Va bene, una bella modulazione, ok. Babuccio! Sì, Assano, mi che ieri sera è cantato la radio che stavi parlando ieri quando mi hai chiesto il controllo, che arrivava alle 9:10. Non so, ma hai detto che mi hai messo io un po'. Disgraziato che sì. Va bene. No? Non è cosa da pensare. Una battuta, non lo so cosa gli è successo, perché ho visto che René eccita, però me ne sono accorto dall'alimentatore che non stava assorbendo, ho detto che tilt è arrivato, ma probabile pure che sia qualche componente, guarda adesso. Guarda, è fusibile a vedere. C'è due fusibili con l'aggeggio, aprilo e controlla, deve essere partito un fusibile. No, ho già guardato, i due fusibili che c'ha sul lato destro, poi a parte il più grosso, quello principale, no, sono buoni i fusibili. Se la sala deve essere bruciato con l'aggeggio, a meno che non gli ha dato un sacco di pilotaggio, allora potrebbe anche darsi. Magari ha bruciato la licenza d'ingresso e controlla la sennera. Il pilotaggio è sempre quello stabile. È stabile, 13,8. No, per esattezza 13,5. Che è quello stabile. Quindi, non lo so. Amico Falussi? Parlavo del pilotaggio dei watt io. L'ingresso, quanto è l'ingresso? 5, 10, 4 di aria. No, di pilotaggio mi stavano dando 3 watt, sono state 2-3 watt. E controlla, magari c'è qualche serratura fatta, interessante, controlla qualche resistenza lì all'ingresso, dove c'è il... Potrebbe essere magari il PL, che si sia risaldato all'interno, capito, e ti fa quel difetto. Mi sembra strano aver bruciato i piani così, mi sembra molto strano. Non lo so, il relay città perché è città, capito? I finali quali sono? Quelli bianchi con i piedini gialli? I finali sono quelli bianchi tondi, c'è scritto se è un 2002 a 24 c'è scritto MRF 422, dovrebbe lontano il 4, se è quella 4. Se è 24 volt, se è 12 volt monta di MRF 455. Se 5,50 ne monta 4, se B300 ne monta 2. No, ne monta 2, sono due, quelli in testa bianca con i piedini gialli, diciamo, dai. Cazzi d'oro. Ho capito. Controlla se quando lo apri, se in quel finale bianco c'è un puntino giallo o un puntino rosso, perché c'è la salva di modelli. Vabbè, adesso ci vorrebbe il test nel caso, dovresti controllarlo. L'ingresso se tirato nella 12 volte, quando schiacci, se al test è tirato uscita. Potrebbe essere magari che hai bruciato uno solo, l'altro sia buono. Ma... No, buon punto, lo sai più di me. Se te ne brucia uno bisogna cambiarli tutti e due, e lo sai più di me tu, Io parlo di quello, lui, non hai capito. Deve controllare se è bruciato solo uno o se sono bruciati tutti e due, ho detto. Non ho detto di cambiare solo uno, da qua per cambiare tutti e due, però deve controllare se è bruciato uno o se sono bruciati tutti e due, a volte capita. E magari è bruciato uno solo, o magari sono bruciati tutti e due. Capito, che ne so, ma fa dei ciò quella là. ma parlo di cose più basse. A chi serve un lineare, un 507, Ossa? No, mi lascia mica pesano, ma se ne riaccia. Da dentro c'ha il 501 a 24, tu lo collega alla corrente a 220 e lui funziona a 24, se marce da intorno ai 250 watt, in quel caso va benissimo. No. Addirittura lasciami capisciare, già, capito. C'è una bestia da sbarazzare di là. Portala qui e la sbarazziamo subito. Capito, c'è quello là che è a Giorgino che avrà il desiderio anche di riscaldare, entrare. Portalo qui che lo facciamo scaldare. Ma io sono di cacchio il contatore prima, mamma mia. Senti, non ti preoccupare. Caccia la corrente del pozzo. Ora? Hai proprio indovinato, io qua a casa c'ho la corrente del pozzo. Collego lì ed è tutto a posto. Quando arriva la bolletta la dividere in quattro. Eccolo qua. Figurati, con quello lì io ho colto la mantova turbo, Io bisogna vedere col capo che hai. E c'è lo perfetto. Ho conto. Bisogna vedere, Sandro, già lo sai. Aspetta che ha beccato Roberto qua, un attimo, beh. Buonasera a tutti, no, sono entrato un attimino, ho messo l'antenna montata alla direttiva, devo fare un controllo giù a Porto Torres, quanto ho perso di segnale, sto montando, adesso sono in direttiva, cioè in verticale con la 5 ottavi, vorrei fare una prova con la direttiva, per vedere un po', però in orizzontale come cambia il segnale. No, guarda, qua se ascolti in orizzontale anch'io, e 6.930. Tondo, vediamo quanto cambi da una all'altra. Esatto, allora questo segnale, devo risolvere questo segnale, questo è quello verticale e questo è il segnale in orizzontale orientato verso nord, esattamente verso nord, puntata sopra nord percorso, magnetico. 9.5 sì, con la direzionale qua. Allora Robert, io ti do controllo. Qua sì 9 più 10, ma in verticale sì 9.20 a picchi di 9.30, con una radio bellissima. In direttiva sì 9.10 con una radio proprio zero, proprio scarsissima. Quindi parlo anche di radio. Giù a Porto Torres invece, restando, mi senti? Addirittura quasi incomprensibile. Gigi, come da te? Positivo, è molto basso da me, è comprensibile come radio, molto basso, invece in un'altra maniera era fortissimo. Se torno in verticale, no, discorso anche, non so anche a te Massimiliano, anche la voce tua si sporca parecchio, la prendo, infatti sembrava che stessi uscendo male, mentre tutti gli americani stanno arrivando a bomba, vi coprono, vi sovrastano come segnale. Adesso faccio, mi sposto un pochettino, buon proseguimento, magari ci sentiamo dopo, provo in orizzontale se riesco a beccare qualcuno, perché i segnali da lontano aumentano tantissimo, oltre 9 arrivano, e le radio si schiariscono, mentre la tua Massimiliano si sporca parecchio, probabilmente la stessa cosa direi tu di me quando metto in orizzontale. Ok? Sì, ma il problema non è mio, ma è tuo. Il problema è tuo, non è mio, perché in verticale esce tranquillamente bene. Giustamente in direttiva è tutto un altro pianeta, quindi diverse bande, diverso, come si può dire, accordo, capito? Ha un diverso accordo, quindi in direttiva si diverso. Va bene, ok, buona serata e buona continuazione allora, ci sentiamo, ciao Roberto. Ok, saluto a tutti i generali, ci sentiamo dopo. Ok, ciao Roberto, in verticale per te il rapporto è 8, radio 4, nell'altro senso sparisci completamente. Cappa. Figurati, qua arrivano gli Stati Uniti che erano un demonio, arrivano. Io di 9, certi 9, allora Santiago 5 l'ascolto in direttiva io a Massimiliano, e c'è l'americano, arriva quasi 7, è scillante. Un patrullo dice, avio. Ma c'è due robe. Cazzo, comunque G, c'è una radio allucinante, un bel forte. Sentivo, dai, compratemela quello che vi dica. E a me non me ne serve, compratemela. Qua 70 euro ve la portate via, oggi 70 euro, domani iniziate alle 80, dopo domani 90, a fine settimana arriva a 120 questa radio. Che sciogliate, ma cosa allucinante? Cioè, 9.40, ma cazzo, c'è la radio, un bel forte, un bel mezzo. Ma che microfono stai usando? Ho un microfono elaborato da me. Sta allucinante. Un bel forte, va bene, ok, riprendi già. Sette in vetrina, ma quello è bello però. Quello che c'è oggi è bello, devo dire la verità, è bello. Sì, va bene, va bene. Va bene, ma ci vieni, intanto sempre uno lo devi usare, cioè non ne devi fare la collezione. Poi se uno deve fare la collezione va bene, deve fare collezionista, va bene. Ma per noi che ci ogni tanto ci facciamo la chiacchieratina nostra, va più che bene così, così. No, Sandro, ho detto questo è in camion, va bene, per un camionista va bene, è un bel apparato, hai capito cosa volevo dire io? È un bel apparato per il camion, perché la grandezza è di un 48, gli ho messo anche i binari che gli mancavano, gli ho messi. Sì, ho capito, no, se sono sarà migliore del 48, non lo metto in dubbio, capito, perché magari ci avrà qualche filtro, qualche attenuamento, diciamo, di disturbi e quant'altro, quindi sarà molto meglio del 48, il 48 già lo sappiamo che è un vecchio cavallo di battaglia, però assorbe quanto c'è, capito, e quindi non ha... in macchina, diciamo, e così via va più che bene. Così, questo è l'Intec, l'MB40, capito? L'MB40, questo nasce così, non è modificato, mi attenzione, Sandro, non è modificato, nasce, è nato così questo, meno... Questo nasce così, non è modificato, attenzione. Sì, ho capito, sì. Poi magari se li fai qualche piccolo accorgimento, meglio ancora. Va bene, va bene. Sì, quello è omologato, mi sembra, vero? Non penso, no, esca da con 5-10 watt dalla casa, no, non penso. E poi va due volte sotto, non è omologato. No, penso proprio di no, credo di no, non lo so, posso guardare dietro, ma non penso che valga, no, può uscire che 10 watt di portante bianca, non penso. Viene omologato con l'apparecchio, solo è stato modificato, c'è una saldatura nel processore, insomma, capito? Non nasce così, ma attenzione, questo è col 1969 dalla casa, mi nascono questi qua. Che non lo so, vedo c'era anche Giuseppe Coso quel baracchino. Bestia 2 c'ha il mobile quando io trovo il 40, il 45 c'è l'altro, l'hanno fatto dopo. Sono entrambi uguali, insomma. AM, FM c'hanno un po' di canali, c'hanno del coso per dei canali arancione e poi c'hanno lo smitter. Tu dici che si fa tipo il 48 uovo che gli fanno le cose e fa i canali, e aumentano i canali, tu, perché poi a parte il frequentivo ti dà la frequenza 26, 28, hai capito? Già lo so, ti ho detto che c'è una saldatura, una micro saldatura dove c'è il processore, proprio dove c'è il fontanino dei canali, lì c'è una micro saldatura, basta in pratica di saldarlo e ti dà 40 canali normali, quello è nato normale 40 canali, e poi è stata fatta la micro saldatura nel processore ed è 200. Prima si faceva così la modifica, poi adesso sono usciti gli ultimi apparecchi che basta che gli fai il giochetto del coso europeo e latino europeo, quello russo, se ne va 400 canali anche quello, capito? Ho fatto quello di Sandro io, il 48 di Sandro, è andato subito ai 120 canali, gli ha dato 50 canali sopra e sotto. E questo di 100. C'era anche cosa quel baracchino, Mario Bassi c'era lo stesso, buttato a casa sua e non lo sta mai usando. Nuovo fiammante c'era, l'avevo modificato, addirittura c'era anche cosa quel baracchino, crocchetto. E poi l'aveva venduto a quello di come si chiama, che era stato entrando, a quello che arrivava molto forte a Sassari, sempre con le fette che era agganciato. Quello che chiamava Claudio, come sta uscendo? Ditemi, io sto uscendo, qui da quello non potevo andare nel canale Alfa, perché Alfa era perché era preso in mare, veramente, chissà. E quello lì è quello di Bologna. Non sento nessuno, io non li sento questi invalidi, Claudio, non li sento. È un assillo, ma un Turco Mare, l'ha eliminato quel baracchino con l'Ecco, ce l'ha venduto, manco male, era un assillo di notte, faceva la festa a cacco con le cuffie. Sandro! Ciao Gennaro! Ciao! Gennaro, Sandro, mi stanno chiamando. Chi è che chiama? Sempre io solo, comunque tu ce l'hai questo 1969? Dovrebbe essere 1969, no? Aspetta un attimino, tocco con perché vediamo un po'. Yeah, se non lo usi. L'altro ce l'hai ritornato, ce l'hai mio. In pratica, l'altro finale, quindi ce l'hai, ci basta che prendi il finale da quel tornato che ci avevo fatto dare per pezzi. Da lì l'altro può fare la cosa, così c'è tutti e tre nuovi, te ne piazzi. Ma aspetta un attimo, ma quel tornado che ho per pezzi di ricambio, quello lì c'ha il 1034, quello verde, sei sicuro? Alessio. No, monta il 1989, monta il 2167 tornado. La volta di 104, di 104, tu stai facendo quelli verdi, quelli sono dello chassis, i modulatori, c'entra niente. Tu guardi quello di fronte dove c'è l'attacco dell'antenna, ci sono i finali, ci sono. Ce ne sono due piazzate, sono due, sono tre, adesso non mi ricordo bene. Controllo la sigla e già come ti sto dicendo io. Dimmi, sa. Allora, non so se sia questo, ma qua ne ho uno verde laterale, ne ho uno verde laterale, un po' largo, e B754, poi ce n'è un altro verde leggermente più stretto, e questo è un TTA473. Poi ha altri due laterali, cioè dal lato diciamo del retro, però c'hanno una piastrina marroncina sopra, non si legge la sigla. Allora il B7, quello che hai detto tu è il modulatore del Saturnecco, quello verde, il grande, poi quello che hai detto prima, la 473, sarebbe in pratica l'altro modulatore. Poi quello dove c'è la piastrina madoncina sopra, che in pratica sarebbe un diodo quello, se tu stacchi la vittina e abbassi quella piastrina lì, dovrebbe essere il 1969 e poi c'è il primo, il 2166. Non lo so perché c'ha la sua vittina, poi a parte diciamo c'ha questa separazione, questa rotolina bianca, poi c'ha questa piastrina marroncina, però diciamo la sigla non si legge perché c'è questa piastrina. Che è quella, ti comandano a farti dare l'esame il baracchino intero mio, Massimo Via, tanto sono tutti e due lì, qui finale. Segnatore sono tutte e due, sono tutte e due, 1969 e l'altro 2166. E come hai tutti gli altri, baracchino per prima, così c'è anche come pezzo di cambio di modulatore, che è grosso, quello che è per Saturnecco. Ma per dove? Per quello là che ti serve a te. Monta questo è il finale, monta. Quindi il corriere finale, baracchino che lo fai prima, scusa. Ma questo dipende dal sangue, non dipende da me. Ma aspetta un po', se vedo il baracchino intero, cazzo, Camelight, cornetto, un caffè macchiato e pizza non basta più. Sto sempre domandando, ma che non te lo compareggi, fai prima che si. Hai teso, Massimiliano. Vabbè, a parole macchia decisori. Io non sto chiedendo niente a nessuno, questo l'ha detto con Puglio di darmi il baracchino, io l'ho chiesto, cioè veramente è stato lui, che lui ci aveva un 1969, io non gli ho chiesto niente. Va bene, dai, comunque, ciao Claudio, buonasera e ben ascoltato, andiamo in Puglia. Buonasera, buona domenica a tutti, dai, ci sentiamo, ciao. Ehi capa, buonasera. Buonasera Sparviero, anche lì in quelle coordinate là. forse. Delle coordinate. Che malattino è questo qui, sa, che ci stai buttando per pizzi, che malattino è? Adesso, allora, se dico la marca, è una delle cose voglio rubarlo, però le cena voglio. No, è un vecchio apparato di vecchia generazione, quindi i finali senz'altro saranno originali. Dimmi la marca, cosa ne so io? La marca non c'è niente, è tutto scolorito, capito? È tutto scolorito. Cos'è un flusso, cioè, cosa diamo a noi? Non lo so, multimode, cos'è? Non lo so. Che funziona tutto. Lo assicuro che magari secondo a chi lo vede riesce anche a metterlo a posto, capito? Perché accende tranquillamente. Qualche componente, qualcosa di recupero, però in effetti diciamo che me l'hanno mandato lassù giusto perché ce l'avevano in mezzo ai piedi, ma se nel caso te lo utilizzi per pezzi, capito? Proprio perché ce l'aveva il magazzino buttato e allora me l'hanno mandato giù. No, volevo fare un interrogativo a Claudio, che tanto già lo so che sta ascoltando. Ok, quando abbiamo mandato quell'Uranus, ti ricordi su verso Cagliari? Allora, l'altro giorno abbiamo provato con Gigi, quello lì c'ha tre finali, 19-69, e molto probabilmente è stata messa una piccola saldatura davanti per non leggere più la sigla, perché non sale più di 10 watt con la radio. Cosa vuoi dire io? No, sicuramente ho detto, sono stati tutti, capito, perché la persona che l'abbiamo mandato sicuramente li servivano e li ha visti tre tutti in fila e sicuramente ha preso e li ha tutti via, capito? Perché l'abbiamo portato, l'ha portato da una persona a sollevarlo un pochino di watt e abbiamo visto che c'ha tre finali in fila, 19-69, ma che allora non ce n'è più neanche uno di 19-69. Bravo, amico di Gigi. Niente, appena leggi 19-69 risalito le antenne, capito? Quindi uno ce l'ha Sandro, uno lo tolgo dal tornado e c'ho quello di riserva, sono due. Uno c'ho un altro baracchino vecchio qua a casa con 19-69 e lo riporto alla normalità. Tu immaginati quel baracchino quando io l'ho comprato era vergine, nel senso che non era mai stato toccato da nessuno. Quindi immagino già di due. Vabbè. Io non lo conosco neanche di persona, perciò se tu mi dici questo, immaginate che ancora c'è il mio amplificatore, non me l'ha mandato. Adesso fino a quando non mi si girano bene le balle, poi lo chiamo e gli dico di mandarmi immediatamente l'amplificatore, capito? E buh, va bene. Già ci sentiamo, statemi bene. Positivo, pila. Va benissimo, va benissimo. Ok, Gigi, riprendi. Ciao Massimiliano, però attenzione Massimiliano, io una cosa che ho detto io così, ho detto ma io, non si sa, io l'ho detta io così, guardando, l'ho detto, questo, però non so se sono state toccate, se sono sempre quelle originali, quelle lì, ho detto queste se erano 19-69, ho detto quella persona se ne era tutti. Però non lo sappiamo, siamo sicuri, non sei sicuro di questo, e quello hai capito, ma non possiamo dire prima di accusare devi verificare, poi dice no, cazzo tu me ne hai cavato di finale, hai compreso, però prima tu non sai, non hai visto che finali c'erano sotto, e neanche io li ho visti, ho detto sicuramente questi sono 19-69, però c'hanno questa cosa, non so se sono originali, sono usciti originali così o se è qualcosa che hanno messo sopra per coprire, capito? Questo non lo sappiamo, hai capito? È una cosa che ti ho detto io così, adesso fate un coso e ne ha tolto il cuore e ti ha messo questo per coprire, capito? Una cosa mia così che ho detto, ma può essere una minchiata che ho detto pure, capito Massimiliano? Quella radio era vergine, prima di averla Massimiliano, quando l'ho comprata io, non è mai stata toccata a nessuno ed era 10 anni dentro una cassetta, capito? Quindi quella persona che l'hai mandata sicuramente ha fatto qualche modifica e non ha detto niente a nessuno. Perché quella radio non è mai stata mandata da nessuno, mai, e poi mai, è stata comprata nuova, mai aperta. Oggi contavo già quasi per intervenire io, perché a quanto conto che fa Claudio, quando ce l'aveva lui, quella radio, ha detto che saliva a 25-30 watt, a quanto dice lui, quindi sicuramente l'avrà provata, e ti sto dicendo che era dentro la scatola, fate un conto. Certo che adesso con tutta la radio aperta e quei trimmer che abbiamo provato provato per vedere se saliva ancora più di radio, fa 5 watt, 9 watt. Certo, io dico, quella che stai usando tu, lui, fa 5 watt, 10 watt e ne ha uno solo di finale, 19,69. Certo, chi canna 3 e non arriva a 10 watt. Cioè, mi sembra un po' strana la cosa, è quello che ti voglio dire. Guarda che quella radio dalla casa da 25 watt, perché la scatola ce l'ho io se non l'ho data a te, e c'è scritto 25 watt, capito, SSB, 25 watt, e 15 watt da AM, AM FM, perciò dite la prossima volta le mani mettersene nel culo. E non è so grave, abbiamo provato proprio ieri, infatti ti ho detto proviamo a sollevarlo del tutto, tanto c'è il pulsantino HI e L, ho detto così, in L da 5 watt, in HI da il massimo dei watt, tanto ma l'abbiamo portata al massimo, anche aumentandole la radio, arriva a 9 watt, non di più. Questo dubbio, ho detto, ma avete finali? Ho detto, non può essere 19,69. Però non si legge perché c'è, non so se sono quelli originali, se sono stati cambiati. Mi è venuta a me questa cosa di dirla a Claudio, non è che, perché lui non ci è arrivato Massimiliano, ma ci sono arrivato io a questo, hai capito? Quando l'ho provata, ci sono arrivato io. Tu ci sei arrivato, ma io ci sono arrivato prima di te. Io ti sto dicendo che quella radio l'ho comprata da Pietro, buon'anima, braccio di ferro, di sorso, ok? Non ha mai avuto un problema quella radio, era dentro la scatola, dopo che lui è morto il fratello ha messo tutto dentro la scatola, e quando l'ho portata qua l'unico difetto che aveva quella radio è che la batteria tampone non tiene le memorie, punto, ed è una cosa normalissima per una radio che rimane tanti anni ferma, ma aveva una funzionalità allucinante, i watt erano 25 in banda laterale e 15 AM FM, e su questo non ci piove, quindi se lui ha fatto una cosa del genere è un grandissimo disonesto, ok? E non lo chiamo per dirle questo, perché voglio essere sicuro, voglio essere sicuro, ma se veramente è così, lui finali mi ritorna a me, e non solo, rischi anche di prendere calci nel culo, capito? Ma io la scatola ce l'ho, Clau, ma la scatola c'è scritto qualcosa fuori di quella radio? Ti leggi a vedere cosa c'è scritto nella scatola e poi dammi una risposta, che te l'ho data con la scatola, infatti, perché la stavo cercando e non c'è qua. La spiega al controllo, riprendi Sandro. Mi dice la verità, Sandro, ma si sta carinando i palattini per prendersi. Ti faccio prima, perché non li trovi tu quei finali? Ecco cosa ti ho detto, perché a me è venuto questo dubbio, è venuto a me questo dubbio, hai capito, Pompu? È venuto a me questo coso ieri, però può darsi che non sia così, capito? Che non sia così, perché io una volta mi sono incavolato su un apparato che avevo 19,39, l'ho mandato prima dal racconto da Giancarlo, e mi avevo fatto fare i canali sopra, e va bene, questo c'era il 1989, poi mi aveva fatto un ristocco Albino e poi è passato da Roberto, poi un giorno apre, non c'era, casa mia colpa, non c'era il 1989 e c'era tutto limato e non si leggeva più, detto, no? Allora sono andato, l'ho fatto vedere a un'altra persona, ho detto, ma qua, ho detto, che cos'è, se no c'è un finale normale, ah, non c'è il 1989, è normale, allora chiamato tutte e tre, ho detto prima uno, poi all'altro, no, io non ho toccato, è stato lui, è stato quello, comunque poche parole io me lo, allora si trovava ancora, mi ha procurato Albino, uno me l'ha dato, 1989, e gliel'ho pagato 14 euro, mi ha preso 14 euro e me l'ho voluto 14 euro per il finale, gliel'ho pagato, per dire la verità, eppure mi è sparito non me ne sono accorto in tre e mi è sparito il finale. A cosa siamo? Ma e poi corrispondenti sarebbe che tre 12, ma non è che diamo tutti questi imbatti, ecco perché anche questo Saturnato non c'è, non monta 1969, monta 2312 e non sono mai qui su, sono stati stracciati da un altro, ma da chi li ha piazzati? Perché c'è le gambette proprio cotte, hai capito lui? Questo Saturnato qui c'ho io. Magari ce l'ha messo il 2312, anche quello è per quello che non crea problemi. Allora, controllato, no, nella scatola, oh, lui non c'è scritto niente, c'è scritto solo Galaxy Uranus 5 stelle, capito, però già ci vuole poco a guardare che finale monta, basta entrare un attimino su internet e te lo dice subito. Positivo, positivo, ma non può darsi sia solo originale, però boh, non lo so perché, ripeto, a me mi era sparito da quel 44, mi era sparito e aveva girato in tre persone, quando mi sono accorto aveva già girato tutte e tre. E io ho chiesto, no, se io ho toccato trapreso lui, quello a buona già sta, allora detto, non ci credo che me ne abbia tolto il finale. Albino non lo so, penso di no, perché poi me l'ha dato lui un finale, infatti lo chiamo a stessi, 14 euro, non lo so, comunque, in poche parole, in tre passate in mano, quando ha girato in giro di un mezzetto in tre persone è sparito il finale, capito? C'è il finale normale sotto. Però Gio, lo sai perché te lo dico? Perché Roberto ce l'ha di vizio, nel senso, appena vede un baracchino che rientra in mano con il finale 1969 a toglierlo. E mi ricordo che a te te l'aveva tolto anche da un Elbex, quel 1969, e te l'aveva tolto anche da un altro baracchino. E infatti io non mi ricordo che aveva queste, sono delle saldature, visto come davanti al finale per non leggere la sigla ci ha fatto delle saldature tipo in gomma, capito? Poco ci ha fatto tipo delle saldature davanti in gomma rialzata per non leggere la sigla del finale, e poi ci ha messo quella pasta bianca che io quando gliel'ho mandato quella pasta bianca non ce n'era, capito, quella che si mette lì nei finali. Comunque adesso lo controllo su internet, cosa, che finale monta quella roba lì. A chi servono questi finali? Servirebbero a me. Guarda, io ho sbagliato a comprarlo, li ho comprato proprio il 1969. Ma il problema è che questa radio li montava già, capito? Sono, sicuramente sono stati tutti. Ma comunque, vediamo un po'. Perché io adesso non me ne faccio niente di più. 1969, ho sbagliato la sigla prendendoli, che non ho controllato tutti. Uno mi va bene perché ne ho preso tre. Adesso mi serve 2312. Che sei, Vannino? No, Francesco, no, Franco. Ah, ok. Beh, vediamo un pochettino, là. Comunque. Un attimino del controllo su internet cosa monta l'Uranus, vediamo un pochino cosa mi dà. Dai, riprendo io un secondo per salutarmi, dai, chiudo, buon proseguimento a todos. Ciao Giuseppe, scusami, ma non avevo fatto caso che eri entrato, scusami. Tranquillo, tranquillo, non ci sta problema e tu lo sai, Massimiliano. Comunque lo stavo controllando, mi dà 2,19,69 a copiati. Come sicuramente sono stati tutti, dai. Sì, va bene, dai, proprio la linguetta. Questa linguetta sembra una bacchilite marroncina sopra. Sono due, sono 19,69, questi sono originali, Positivo, Sandro. Dai, in settimana limite ci sentiamo via bassa e ti porto quel tornado per pezzi di ricambio. Poi ci vediamo qua a San Giovanni. E te lo passo, vai, così c'hai, se ti serve qualcosa ce l'hai completo. Ehi, vabbè, dai. Vabbè, giusto per pezzi, dai. Magari lo tieni per pezzi se può servire qualcosa. E non hai il tornado, vieni tu. Te lo prendi tu e se lo usi per pezzi, mi hai capito? Va bene. Capito, Gigi? Due finali 19,69, due accoppiatine. Andan bene, dai. Però non so, dobbiamo vedere se sono poi le lice, sono sempre su, che cosa, non lo so, Massimiliano. Poi aspetta un attimino, G, conto 1001 monta sempre 19,69. Bene, monta, sì, due, e non li trovi più se li perdi, Non sono delle da più, mio, Massimiliano. Massimiliano. Va bene, dai, non fa niente. Va bene lo stesso. Va bene, solo perché sei tu me. Tu Gigi, sono sicuro se Sandro le si usa il sarraggio ce la vendi subito. A chi non è assai contento, No, quella radio lì che gliel'ho detto a Gigino che bisogna portarla a equilibrare. Appagata, no, ma io l'8001 gliel'ho provato tante volte, ovviamente me lo segnati, io dico la verità, gli ho fatto un segnettino invisibile nei finali, Massimiliano, gliel'ho fatto segnare, e ho visto che l'ho controllato e sono sempre quelli, non li ha toccati. L'8001 mio non li ha toccati, dico la verità. Io l'ho guardato e me lo segnate apposta perché se no ci sentiamo di brutto, però ho visto che niente il segnetto e sono 19,69, sono sempre quelli. Gì, ma già ti è successo anche a te? Guarda, sei più amico di te qua in zona di Sassi, non per me, E la giurista non ti ha bucato pure a te, ma non in quel baracchino, ma anche in un altro io sono. No, sì, perché sono sicuro, ma è una cosa che ho festeggiato. Ci ho festeggiato di brutto perché quando l'ho aperto apposta a vedere, l'ho visto che non c'era, ho detto no, caro mio, non ci sono le finali miei, perché erano tutti rimasti, non si è fatto la sigla, ho detto no, tu hai fatto minchiate qua. E ho visto, no, ma non ci volevano perché così. No. Ci volevano. E quindi vedi bene, Gigi, io c'ho il computer acceso, ho cercato Galax Uranus e c'ho scritto nel motore di ricerca che finale monta il Galax Uranus. 19, scusate. È positivo così. Dai ragazzi, io faccio un attimo di bianco, dai. Di bianco, anzi tanto pure, no, che me ne vado giù a casa. E là, ok. Comunque G, va bene con la radio, sto uscendo abbastanza bene, adesso che ha scaldato è perfetta, ok. Allora la chiudo e qua e dai. Va bene, ciao G, buona serata e buona continuazione. Popolino. Ok, dai, vediamo un pochettino, eccolo qua Gigi. Dai, se stai chiudendo ce la risentiamo, vai. Senti, ora è settimana vedo di partire di ritirare quella roba lì. Ma detto che sta funzionando e te la ritiro, dai. Ok, dai. Va bene, questo è l'8001, noi. Benissimo come esce dalla casa. Vabbè, soltanto che c'era il discorso del microfono, dai. Un microfono, dobbiamo cercare un microfono, vedere un po'. Ok. Vedi che l'eco non urla come dovrebbe urlare. Positivo. Dipende come lo impugni, come lo fai girare, dai. Ok, dai. Va bene. È sempre un romancone, dai. Sempre un romancone, quello lì. Ci sono sono in casa. Allora, lei lascia in tecnico giù un cocco e brucia. Si intende che è un coccoido. Aspetta un attimino. Coccoide nudo. Ci siamo, sì. Vabbè, considera che sto usando una simia, sto usando il microfono lì del tornado, eh. Ehi, no, quello già è veramente poi ti piace. Non so. È per i miei gusti personali, attenzione, I miei gusti personali, Ehi, vabbè, dai. Va bene, l'importante è che vada bene per il resto già va bene, dai, tanto. Non è che cosa gli devi pretendere? Ma niente, è che cosa gli devi pretendere. Attenzione, il radio va bene, a me non piace l'eco di quella radio, però la radio va bene. Anzi, sta andando anche troppo bene con un microfono che non è neanche il suo, quindi sono sicuro che già cambiando il microfono ti cambierà totalmente la radio. Ok, dai, proprio riprendi, datemi 10 minuti che io devo andare a farmi la luce un secondo, va. Poi se ci siete ancora riprendo per i saluti. Vai, proprio. D'accordo, va bene. Non so che ci sia rimasto nel canale, perché mi è allontanato un attimino. Ok, dai, va bene, va bene. Buona. Buona doccia! Buona doccia! Massimiliano, dai, ce la sentiamo anche io, stacco un attimino. Va bene. Popo, vediamo un attimino adesso com'è. Poco fa stavo usando il mic normale, adattato, adesso sto usando quello da base. Aspetta, vediamo un po'. Intanto lo riconosci subito qual è. Isabella. Ehi, capa, com'è la modulazione? Modulazione è buona, però si è leggermente stato compresso più che altro. È compresso, aspetta un attimino. Aspetta un attimino, vediamo un po'. Così ha scarificato, è chiaro? Sì, così sì, così va bene. Soltanto che c'è questo innesco, non riesco a capire, forse troppa amplificazione, dai. Adesso va meglio, non c'è nessun rientro. Va bene, dai, ok, dai. Faccio un attimino di bianco che devo portare il signorino un attimino, va. Anche lui c'ha diritto. Dai, un po' a più tardi, se coincide. Sì, è d'accordo, ci stiamo più tardi allora. Buona passeggiata fino al cane. A voi. Oh, se ci siete, dai, io riprendo e vi saluto momentaneamente.